Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Usa da tempo per i fiori sul terrazzo. Però adesso sta diffondendosi finalmente per tutte le coltivazioni. Con un grande risparmio di acqua. Ecco, l'irrigazione è uno dei temi che Food Lab, il programma che si occupa della tecnologia legata all'alimentazione e all'agricoltura, vi racconta oggi. Beh, se devi farti uno shampoo e una doccia, puoi buttarti in una piscina. Certamente funziona, no? Ecco, sì, un po' è il parallelismo. C'è una certa esagerazione. Può essere questo. No, perché parliamo di irrigazione in realtà, non di docce o di igiene. Perché parliamo di irrigazione goccia a goccia? Ecco. Perché appunto in ambito di tecnologie legate all'agricoltura, senz'altro questo tipo di irrigazione sta avendo, diciamo, in questo periodo una grossa diffusione. Quindi ne parliamo con un esperto, diamo il benvenuto ad Alberto Puggioni. Benvenuto Puggioni. Grazie dell'invito. Lei è responsabile agronomico di Netafim, e Netafim, per chi non lo sa, è un'azienda multinazionale, lei lavora per la filiale italiana, che è leader nell'irrigazione goccia a goccia. Partiamo con il definire che cos'è l'irrigazione goccia a goccia. Allora, l'irrigazione goccia a goccia è una tecnica di nutrizione idrica che si basa sullo studio approfondito dei fabbisogni della coltura, sul suo sviluppo nel tempo e quindi sul fabbisogno crescente e poi decrescente di una certa quantità di acqua, che è soprattutto funzione delle condizioni climatiche, della fase di sviluppo della coltura e del terreno dove questa si sviluppa. Ma perché voi avete analizzato pianta per pianta qual è un fabbisogno di base di quella pianta e dopodiché arriva la tecnologia che dà, diciamo, le gocce giuste anche? Esatto, perché diciamo l'applicazione sulle colture seminative è innovativa, ma la tecnica dell'irrigazione a goccia compie quest'anno 50 anni, quindi la quantità di studi agronomici accumulati in 50 anni sui fabbisogni delle colture in giro per il mondo ci permette ad oggi di stabilire qual è il fabbisogno di una coltura in un certo areale per ottenere una certa produzione. Ecco, per chi non l'avesse mai visto, è fatto in questo modo, cioè il campo è disseminato di tubicini che hanno dei buchini e praticamente la goccia va a cadere proprio dove c'è la piantina. È così, no, Puggioni? Sì, diciamo che in corrispondenza dei buchini ci sono all'interno dei tubi in polietilene, quindi della cosiddetta ala gocciolante, ci sono dei piccoli gocciolatori, cioè una microtecnologia. In corrispondenza di ogni foro c'è un piccolo gocciolatore che rallenta l'acqua in maniera voluta, in maniera controllata, in modo che l'erogazione sia costante in ogni punto. Cioè noi sappiamo che quella pianta deve bere, non so, un litro al giorno e lui è programmato per erogarne un litro al giorno, è così, no? Sì, allora, diciamo che il fabbisogno viene stimato normalmente più sulla superficie complessiva, però il senso resta quello. Veniamo all'efficienza. Allora, questo tipo di irrigazione ovviamente non permette di risparmiare acqua, certamente. Diciamo che la pianta ha bisogno di quella quantità, ecco. Quello che noi andiamo a ridurre sono gli sprechi, cioè molto spesso noi vediamo nell'irrigazione a pioggia che tanta acqua va sulle zolle o nei punti dove non servirebbe. Sì, diciamo che di solito viene fatto l'esempio del fabbisogno settimanale di una persona in termini di acqua. Sì. Stimato per un tot litri al giorno, io ho diversi modi per distribuirla. Normalmente noi cosa facciamo? Beviamo quando abbiamo sete, abbiamo la possibilità di farlo. Per una pianta è molto diverso. Le tecniche come lo scorrimento, l'aspersione tendono a dare grandi volumi tutti in una volta. Sarebbe come se io vivessi tutto il fabbisogno di una settimana in un giorno e poi per i rimanenti sei giorni non vi do più niente. Quello che riuscite a prendere nel primo giorno, bene, siete a posto. Gli altri sei giorni andate ovviamente in crisi, prima da saturazione perché ve ne ho dato troppa, poi per carenza. Per carenza. Con l'irrigazione a goccia si lavora invece con una frequenza che è funzione di mantenere la pianta, serve proprio funzionale a mantenere la pianta in uno stato idrico ottimale, in modo che possa produrre, possa sviluppare il suo metabolismo e rispettare gli obiettivi produttivi. Funziona per tanti tipi di piante, di coltivazioni, oppure sono poche? Allora, ad oggi, diciamo, con il riso penso che abbiamo vinto l'ultimo tabù. Oh, il riso, noi siamo abituati a pensarlo sommerso. E il riso invece già da 9 anni, Netafim lavora da 10 anni, col 2015 lavora sul riso a goccia, nei paesi oltretutto di maggiore vocazione, quindi Cina, Thailandia, India, e in Italia ci lavoriamo già da 5 anni. Quest'anno siamo in fase di completamento del protocollo, per cui il nostro desiderio è quello di uscire nella prossima campagna con una proposta anche per il riso a goccia. Quindi noi ci immaginiamo le nostre varietà italiane, le piantine di riso, non so, il riso arborio nel vercellese, non più completamente sommerso dall'acqua. Questo potrebbe essere uno scenario, quello, diciamo che questo sarebbe è lo scenario che viene subito in mente. La vera rivoluzione, a mio avviso, è quella di poter prendere il riso e farlo fuori dalle risaie, quindi dare l'opportunità alle aziende agricole di mettere il riso nella loro rotazione colturale e metterlo per esempio su un suolo che non ha bisogno di essere preparato al laser come si fa per la risaia, che non ha bisogno di tutte quelle lavorazioni, ma che può essere realizzato come un seminativo qualsiasi. Come si fa poi quando c'è il raccolto, ad esempio, per il grano o il mais? Quando passano le macchine, non tirano su tutti i tubicini e l'impianto? Bisogna rimetterli giù? Allora, in funzione della tipologia di raccolta, per esempio se parliamo di un mais da trinciato, normalmente il taglio avviene a circa 15-20 cm dal suolo, quindi in quel caso è rarissimo, direi, per adesso mai successo nella mia esperienza, che la lagocionante venga intercettata. Okay. L'importante è raccogliere molto bene le informazioni in fase preliminare, cioè lo devo sapere prima che cosa succederà nella fase di raccolta. In questo modo posso studiare delle soluzioni opportune. Per esempio, si può rincalzare la lagocciolante sotto pochi centimetri di terra, questo ne aumenta ulteriormente l'efficienza perché si riduce l'evaporazione superficiale. Cioè si possono sotterrare più, diciamo, i tubicini in maniera un po' e questo semplice. Un po' introduce il concetto che è un po' la visione futura che abbiamo, che è quello di avere degli impianti di sub-irrigazione. Quindi la lagocciolante passa dalla superficie a una certa profondità che è funzione degli apparati radicali delle colture da irrigare e lì rimane per 20-30 anni. La rotazione viene applicata ciclicamente e l'installazione si fa una volta, poi si fa solo manutenzione. Ma forse noi abbiamo un'immagine un po' vecchia, i campi a un certo momento non si devono proprio rivoltare, quindi si va sotto anche 30-40 centimetri? Questo fa parte di un'agricoltura tuttora presente, ma sempre più rara. Quello che riguarda l'agricoltura conservativa, cioè il mantenimento di un suolo vivo, attivo, che non viene quindi diciamo violato da questo tipo di pratiche. Sì, sì, avevamo il sospetto che questa cosa del rivoltare le zolle fosse in realtà un po' vecchia. Va bene, grazie Puggioni, buon lavoro. Grazie a voi, buone cose. Pensa Federico come questa irrigazione goccia a goccia potrà cambiare o cambierà, chi lo sa, i nostri panorami agricoli della nostra penisola. Il riso in Puglia, in Sicilia. Chi lo sa. E le mondine? Per oggi è tutto, per Food Lab ci sentiamo alla prossima puntata.